Nonsense, nonsense. Nonsense, nonsense. Nonsense, nonsense. Nonsense, nonsense. Giro, rigiro, cerco il senso, non lo trovo, non ho certo soluzioni e tantomeno vendo oro. Sono solo un individuo, una voce fuori dal coro. Non mi importa se capisci, nessun gregge è meglio solo. Tiro dritto la mia strada oscura, né mica una passeggiata. Preferisco la radura, quella comoda e laccata. Nessun privilegio, ma sfregio. Grido forte, non inneggio, ma contesto. A volte sono drastico, lo so e l'ammetto, ma si tratta di coerenza, nessun compromesso, soprattutto coi nemici, a volte coi presunti amici, mica passerini qua, siamo arabe fenici, cadiamo, ci rialziamo, nelle ceneri sguazziamo, preferiamo nero fumo, al comodo divano, c'è chi può, chi non può, io mi metto nel mezzo, si fa quel che si può, per puntare in alto al cielo, testa alta, cuore impavido, e con l'umore livido, a volte bene, a volte male, non è apocalittico. Ma critico, col sorriso di traverso, come sempre vi deriglio a tempo perso. Lupi solitari nella steppa come esse, in una realtà fasulla che ti inganna come Escher. Minoranza fra le minoranze, mentalità diverse, ne abbiamo viste tante cose belle, altre perverse. Ne abbiamo viste tante cose belle, altre perverse. No sense, no sense, no sense, no sense, no. No sense, no sense, no sense, no sense, no. No sense, no sense, no sense, no sense, no. No sense, no sense, no sense. Non vogliamo la ragione, forse per i fessi, ma far come ci pare senza chiedere permessi. Riprenderci le strade che sono sempre nostre. Immagina l'impossibile, ne abbiamo a frotte. Come flotte di pirati per i mari ci aggiriamo tra le onde e le tempeste. Ma senza capitano, nuovi lidi che ci aspettano e noi li conquistiamo. Non portiamo ordine, ma soltanto un po' di caos. Creatività, fantasia, un tocco di sapore, un poco di calore in questo mondo di torpore che a tanti fa tristezza, ma comunque ci si crogiola. La rivolta non aspetta, bussa alla tua porta. Aspettare il momento, ma quale? Prendi in mano la tua vita senza titubare. A forza di credere che non c'è più da fare, finiranno per convincerci che è meglio il capitale. Che è meglio il capitale, la fottuta libertà di un mondo globale, dove tutti gli sfruttati fanno una guerra banale. Sgomitano, si sbattono per una merda di lavoro, che se poi non si trova beh, i migranti è colpa loro. Fermati un attimo, metti a fuoco il nemico, non cercare tra i tuoi piedi ma puntare in alto il dito. Anda oltre il proprio naso, non fermarsi all'apparenza, alla fine sono pochi, attaccarli con pazienza. Fermati un attimo, metti a fuoco il nemico, non cercare tra i tuoi piedi ma puntare in alto il dito. Anda oltre il proprio naso, non fermarsi all'apparenza, alla fine sono pochi, attaccarli con pazienza. Non senso.